Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Sono, io direi, veramente emozionata, non è il solito modo così un po' banale, a volte anche stucchevole di dire, no? Quando si ha un personaggio particolare, perché è qualcuno che ci è così familiare, ma direi attraverso, non so se si offende, ma due secoli, per cui io direi di non perdermi però in parole mie, ma ascoltiamo le sue. E prima di tutto chiedo a questo misterioso personaggio, che immediatamente si paleserà anche solo attraverso la sua voce, quali sarebbero tre aggettivi coi quali potrebbe sinteticamente definirsi. Prego. Biondo. Biondo? Sì. Sì. Un po' stupido. Un po' stupido. Sì. Il terzo? Il terzo è buono. Buono. Buono. Buono come il pane. Come? Io direi che però c'è stato un grave tentativo di depistaggio da parte del personaggio, a parte l'ultimo aggettivo, perché non è né biondo, in gioventù non mi ricordo se eri biondo, un po' stupido, proprio, mai, né biondo né un po' stupido, mai. E la voce io credo che sia talmente inconfondibile, molti che avranno sensibilità d'orecchio, ma senza bisogno neanche di averla. Tra me e Pavarotti non c'è nessuna differenza. Vero? No, invece c'è, perché la tua, che è una voce baritonale, non è uguale a nessun'altra, Quella di Arnoldo Foà, un ragazzo di 92 anni, è inconfondibile in una parola. Arnoldo? Come no? Uno dei più importanti artisti italiani. Io dicevo che hai attraversato... Il più. È giusto, a 92 anni ci si può dare anche un po' di aria, o no? Più di 70 anni di carriera, Arnoldo, se ne hai 92, è iniziato verso i 14-15 anni, no? Sì, 14 anni e mezzo, sì. 70 anni di carriera, dicevo, teatro, TV, televisione, hai fatto il doppiatore per tanto tempo, insomma c'è una storia lunghissima da raccontare. Dove possiamo iniziare? Sei di Ferrara, sei della classe 1916, giusto? 1916, tra poco mi sa che compi anche un altro anno, ma vabbè, insomma... 93, ma non invecchiamoci prima del tempo, insomma, non cresciamo prima del tempo. 24 gennaio. Se tu dovessi ritornare indietro di molti anni, tu ce l'avevi in mente coi tuoi, intanto appunto eri a Ferrara con tua mamma Dirce e papà Valentino, e poi vi siete trasferiti abbastanza presto a Firenze. Sì. No, dove tu hai studiato la scuola. Io praticamente a Ferrara non ci ho vissuto. Quasi per niente, quindi. Quasi per niente. Quasi per le scuole le fate a Firenze. La adoro Ferrara, la adoro. Ma non perché ci sono nato, perché è bella, perché la gente di Ferrara è deliziosa. Perché si va in bicicletta, o no? Perché si va in bicicletta, perché ti rivolgi a qualcuno, chiedi qualcosa, questo immediatamente si volta sorridendo e ti risponde. Cosa che non succede nelle altre parti d'Italia. Neanche lì a Roma, dove abiti tu? No, niente. Nessuno ti sorride. Beh, l'Emilia Romagna, la Toscana e altri posti così forse hanno mantenuto ancora un po' questa dimensione un po' più umana, no? Sì, la Toscana. Firenze si è rovinata perché non ci sono più fiorentini, ci sono stranieri, ma mi è impressionante. Stranieri come turisti, intendi? Sì, turisti. Inglesi, tedeschi, poi che hanno comprato molto. Cinesi, giapponesi, di volte vedi della gente che non ha niente a che vedere con Firenze. Non si trova un fiorentino, senti. Non ma si trovano più. Invece, ritornando, quindi Firenze, diciamo, hai studiato la scuola superiore e avevi cominciato a fare la scuola di recitazione, no? Sotto la guida di Raffaello Melani. Poi a 20 anni hai lasciato la facoltà. Ma sai tutto, perché sei mia sorella? Ma no, non sono tua sorella e neanche una delle tue figlie, che tu ne hai tante fra l'altro di figlie, no? Lo sbaglio? 5 ne ho avuto, una è morta, poverina. 5 figlie, 4 figlie, quindi sei in mezzo alle donne da tanto tempo. Poi diremo anche quante mogli hai avuto, perché... Insomma, 4. Ma in una vita non ci si... Ridi? Perché non ci si stanca di sposarsi in una vita, no? Si arriva no, anche... No. Ma poi questa ultima è una cosa... è un miracolo tale che... Anna, si Anna, chiama? Sì. Ma è un miracolo perché è arrivata in un momento in cui non te l'aspettavi, perché lei ha una personalità particolare? È arrivata perché non me l'aspettavo, è perché è una persona unica al mondo, non ce ne sono altre come lei. Che cos'è quello che ti piace di più di lei? Tutto. Tutto? Caspita, meglio di così, quindi non potevi capitare. No. Senti, quindi dicevamo che a 20 anni hai abbandonato la facoltà di economia e commercio, no? Perché stavi studiando all'università e hai deciso che dovevi fare l'attore. Sì, non per fare l'attore. Dunque, un impiegato di mio padre, sì, che era di un'intelligenza eccezionale, ma non faceva l'intelligente, lo era. Lo era, faceva quello che doveva fare, stava per morire. Mi disse una cosa talmente importante che ha cambiato la mia vita. Mi ha detto: Arnoldo, faccia la fame, ma veda il mondo. È una cosa talmente bella. Tu vivi nel mondo e non lo vedi. È vero, fai la fame, ma veditelo. Guarda dove stai vivendo. Devi vederlo tutto il mondo, devi amare la gente, devi amare la gente, questo è molto importante, le guerre sono una cosa vergognosa. Se tu pensi che la morte di uno, guarda, uno qualsiasi, è una sofferenza mostruosa, e quando tu dici 12 morti, ma 12 morti è una sofferenza eterna. 12 morti. Figuriamoci una guerra, quindi. Stavi dicendo. Perché poi tu l'hai vissuta naturalmente. Io l'ho vissuta senza farla, perché per fortuna c'erano i fascisti che mi avevano buttato fuori dal mondo perché ero ebreo, e allora. Tu facevi il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, e con le leggi razziali del 1938 sei stato tagliato fuori di lì, perché esatto, sei appunto ebreo. E quindi per questo, diciamo, l'hai vissuta in parte, almeno certi aspetti deteriori, non magari le cose più tragiche, però l'hai vissuta sulla tua pelle. Storielle. Storiacce. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sempre qui a Storielle, Roberta Giordano con voi, con un grande, grandissimo personaggio, il più grande, lo ho detto, tra gli artisti italiani, Arnoldo Foà, che abbiamo riconosciuto dall'inizio, insomma, con la sua voce unica, dicevamo, uguale a nessun'altra, baritonale, che ci ha accompagnato in tanti, tanti anni, se contate che classe 1916, sempre pieno di entusiasmo tu, Arnoldo. Però ritorniamo un po' a quello che ci stavamo raccontando prima, cioè che dal 1938 tu hai dovuto lasciare il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma perché sono state promulgate le leggi razziali dal fascismo, e siccome tu sei ebreo sei stato costretto a lasciare gli studi. Però sei riuscito a sopravvivere, come ti aveva consigliato quell'amico di famiglia, no? Fai la fame piuttosto, ma vivi il mondo, viaggia, gira, vivi le cose, insomma, direttamente, con intensità. Tu sei sopravvissuto perché hai sostituito attori famosi che si ammalavano, no? Attori teatrali in quel periodo, e quindi poi verso la fine della guerra ti sei rifugiato a Napoli e hai avuto il grande onore, possiamo dire, di comunicare a milioni di ascoltatori, perché eri stato preso come capo annunciatore alla Radio Alleata, di comunicare la fine della guerra. Scrivevo praticamente. Scrivevo anche. Scrivevi per Sì, ero Schiffenhauer and writer. Perché tu, tra l'altro, sei non solo attore, grande attore di teatro, di cinema, televisione, eccetera, sei pittore, scultore e anche giornalista e scrittore. Sì, a 14 anni e mezzo, da avanguardista, ho fatto una cosa in nave, siamo andati fino a Turchia, e ho scritto quello che stavamo facendo per la Nazione di Firenze, gli articoli miei sono stati. C'avevo 14 anni e mezzo. Però poi hai contribuito anche alla nascita della Radio Rai, no? La ex EIAR. Ti ricordi quei momenti tu? Sì, me lo ricordo, sì, vagamente me lo ricordo. Poi sei stato doppiatore per molti anni, l'attività teatrale, sei stato regista, sei stato autore oltre che attore, la carriera cinematografica, più di 100 film con registi come Pietro Germi, Giuliano Montaldo, fino a Orson Welles, insomma, ne hai fatte di cose nella tua vita, Arnoldo Foà. Sì. Se tu dovessi ricordare un personaggio, una persona nella tua vita che ti ha colpito in modo particolare, sì, di tutti quelli che hai incontrato, con tutte le persone con cui hai lavorato. Solo te. Solo me, perché sono la più recente, forse? Sì, si vive alla giornata. Sta per dire, parla con una persona di essere gentili, no? No, questo mi fa molto piacere, però diciamo qualcuno che ha inciso sulla tua vita un po' di più. Boh, non lo so. Mastroianni, mi ricordo, una volta lo hai ricordato. Sì, ricordo tanta gente, ma uno che ha inciso di più sulla mia vita, non lo so, mia moglie. Tua moglie, l'ultima? Attuale. Sì. Poi le importanti produzioni televisive della Rai che tanti hanno potuto conoscere, Capitan Fracassa, Le Cinque Giornate di Milano, La Freccia Nera, Gian Burrasca. E poi hai pubblicato due romanzi, una raccolta di poesie, l'ultimo romanzo, che è due romanzi in uno o uno che diventa due, che si chiama Ioanna e Luz Marina. Ioanna, appunto, Luz Marina, sì. Sono due donne. Ioanna è una donna delle Seiche e Luz Marina è una donna dell'America Latina. Della Colombia, dove tu hai girato tra l'altro uno dei due ultimi film, no? Che hai fatto. Sì. Ma adesso sto facendo un altro. Un altro film. Ma tutta questa energia Arnoldo Foà a 92 anni dove la trovi esattamente? Adesso non la trovo più, guarda. È un periodo che faccio una fatica a camminare, a stare in piedi, a stare sveglio. E tu mi tieni molto sveglio, ma gli altri no. Ti fanno un po' pisolare. Ma è vero, come hai detto una volta, che fare l'attore è difficilissimo? Fare l'attore è una cosa che, insomma, o si fa o non si fa. Non è una cosa che si può insegnare, sì, si può dire come, fai così, fai colà, ma diventare un grande attore, questo non lo dico per me, ma diventare un grande attore, un attore importante da essere ricordati, questo è non si sa com'è, perché se tu pensi per esempio a Ruggeri, che era uno che parlava così, diceva tutte le cose nello stesso modo, però se era comico era di una comicità meravigliosa, se era drammatico era di una drammaticità straordinaria, eppure era uno che non si può ripetere, era lui. Nella tua vita, Arnoldo, dicevamo che aveva avuto quattro mogli, quest'ultima è Anna, c'è qualcosa che l'esperienza ti ha dato? Nel senso, che cosa hai capito dopo tanti anni, dopo averle vissute così da vicino le donne? Cosa hai capito di loro? Tre, quattro cose che hai capito delle donne? Le donne sono come gli attori, ognuna è diversa una dall'altra. Non è che capisci qualcosa delle donne e quindi scegli la donna migliore. Ti capita una donna come è capitata a me, un miracolo come Anna, ed è un miracolo, è avvenuto, è fortuna. Ma quello che più ti piace in una donna, nella personalità di una donna, che cos'è? Troppe cose, non posso parlare del sesso perché questo qui non sta bene. Se vuoi, insomma, naturalmente no, anche la sessualità, no? È una parte importantissima. Sì, non è che, certo. Perché siamo uomini e donne, quindi, ma che cos'è che ti piace una donna? Dice, allora a me mi piace questo nelle donne e allora trovi la donna. No, trovi la donna che non ti aspettavi che ti piacesse tutto quello che è. Questo è l'importante. È una specie di mistero, allora, diciamo. È un mistero, ma certo, è un fenomeno, è un miracolo. Senti, c'è una cosa, Arnoldo Foà, del modo di vivere di oggi che non ti piace proprio? Sono tante le cose, come faccio a dirlo? Se tu leggi i giornali oggi ti viene da vomitare quando leggi quello che hanno fatto certe persone, non lo so. L'importante è essere, amare il prossimo, amarlo, perché è come te, perché ognuno di noi ha una sua vita, ha i suoi piaceri, le sue soddisfazioni, le sue tristezze, ognuno di noi è uguale in un modo così enorme che se ci amassimo tutti veramente sarebbe molto importante. Non fare guerre, non farle. Se tu pensi che chi muore nelle guerre? I cattivi? No, purtroppo, non i cattivi. Hai capito? È questo. Parlavamo prima del tuo ultimo romanzo, Ioanna. Luz Marina. Tu hai vissuto per un po' alle Seychelles, poi però sei tornato in Italia. Credo che tu te la sia goduta abbastanza. Le Seychelles sono un bel posto, mi sembra, per vivere, no? No, io sono stato 4 anni, però non ci sono stato 4 anni perché ho fatto venivi, andavi. Un film fuori, in America e in Inghilterra, quindi non ci sono stato 4 anni. Ma quello che mi sono piaciuti sono gli abitanti delle Seychelles, perché vivono la vita senza cercare di essere più importanti di quello che sono, vivono la vita, basta, e si vogliono bene. Poi però sei tornato in Italia e ho letto una volta che hai detto l'Italia è comunque il paese più bello del mondo e gli italiani sono fantastici, la pensi ancora così? L'Italia è l'unico paese al mondo che ha ogni città e ogni regione dei personaggi della popolazione che sono diversi l'uno dall'altro, questo è il bello, a parte la bellezza geografica e la bellezza artistica, perché ogni città ha qualcosa di bello, certo, artisticamente parlando, che nessun altro paese al mondo ha. Ma tu sei credente o no, Arnoldo? No, assolutamente niente. L'uomo ha creato Dio, prima gli dèi, poi gli dèi sono diventati peggio di lui e allora li ha tolti per arrivare a uno, che poi è uno e trino, perché se era solo dava fastidio. No. Ma quindi non sei una di quelle persone che con l'avanzare dell'età succede spesso, no? Magari una persona nella vita non è molto credente, magari non lo è per niente, e poi con l'avanzare dell'età, forse un po' o per paura o perché ritrova una dimensione diversa, si converte o comunque comincia a credere in qualcosa. Non è il tuo caso? No. Senti, non ti faccio una domanda banale che penso ti stiano facendo da 20 anni, no? Qual è il segreto di questa tua tempra, di questa tua classe, di questa tua energia, anche se dici che ultimamente, vabbè, sarà anche il tempo, ti senti meno energico. Io non te lo chiedo, però c'è forse il mantenere un po' un cuore da bambino per certi versi. Questo sì, sono un po' bambino e questo mi piace, infatti adoro i bambini, dico alla gente, ai genitori, siate severi con i bambini e buoni con i bambini, che i bambini diventino buoni a loro volta. Ho trovato una tua poesia che dice: quando mi vedo nudo mi faccio pietà, perché 91 anni, quindi era dell'anno scorso, sono una bella età, ma vederti la pelle cadente, tutta grinze e i capelli sfoltiti, bianchi come la neve, alla fine mi chiedo io, che ho campato a fare? Io che ho campato a fare, ma uno nasce per morire, vabbè, se la vita è fatta per morire, è una stronzata, la vita dovrebbe essere fatta per vivere eterni, se no che vivi a fare? Senti Arnoldo, per chiudere, questa che senti qui un po' metallica, è la lampada di Aladino, dentro c'è chiuso il genio, se tu dovessi chiedere alla tua età di ragazzo di 92 anni, Arnoldo Foà, che cosa chiederesti come desiderio alla lampada di Aladino? Di non farmi soffrire per morire. Questa è una cosa che mi fa una paura folle. Morire, va bene, tanto lo si sa, si nasce e si muore. Ma soffrire per morire, questo non è nemmeno giusto. Non bisogna soffrire per morire. Dormendo. Questo voglio. Però io ti abbraccio con forza perché mi auguro e ci auguriamo che tu ci accompagni il più a lungo possibile. Capito Arnoldo? Abbracciami ben vestita, per favore. Se no, posso baciare. Essere conturbante. E ti do un bacio. Mia moglie. Un bacio sulla fronte, tua moglie, così non. Vabbè, non si indispettisce. D'accordo. Un bacio. Grazie Arnoldo Foà. Sì, grazie a te. Ciao Arnoldo.